Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. E sulle frequenze di Blu Radio Veneto una nuova puntata di Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile. Ai microfoni Anna Zampieri e Cristian. L'ho fatta come nelle radio un po' più commerciali, un po' più famose, con questo lancio. Ti è piaciuto? Bellissimo, bravo. Allora Anna, com'è andata questa settimana, la settimana passata? Allora, come l'hai vissuta? Tranquilla, felice? Hai fatto qualcosa di bello? Sì, allora sabato scorso sono andata ad un matrimonio di due cari amici, Alice e Andrea. E che salutiamo e che ovviamente noi rivolgiamo le nostre migliori congratulazioni, migliori appunto auguri per la loro vita matrimoniale. E infatti è periodo di matrimonio, anche io ci sono stato un mese fa, qualche settimana fa, dai, 2-3 settimane fa. E saluto allora anche i miei sposi novelli, Deborah e Sante. Tanti auguri anche per la vostra appunto nuova famiglia che formerete, eccetera. È bello andare in matrimonio, ti piace andare in matrimonio? Sì, Anna? A me piace proprio tanto, perché mettono gioia e poi è bello vedere l'amore, insomma, tra due persone che li porta a compiere questo importante passo, e quindi è un segno importante anche dal punto di vista della fede. C'è un momento nella cerimonia o nella giornata di festa che ti piace particolarmente? Beh, allora la cerimonia in il pranzo? Sé, no. Più che altro la cerimonia in sé, sì, è stata molto bella, anche perché poi loro due alla fine, verso la fine, hanno deciso insieme di fare appunto una preghiera di ringraziamento e di affidamento, quindi anche questo è stato un bel gesto, secondo me significativo. E poi insomma si è festeggiato assieme, qualche scherzo simpatico, quindi è stato bello, anche divertente. E poi in qualche maniera, quando partecipi secondo me a queste feste, soprattutto appunto alla festa matrimoniale, anche se sei appunto un semplice, tra virgolette, semplice invitato, sei un po' responsabile, ti devi un po' anche prendere sulle spalle, custodire questa coppia, perché tante volte appunto le coppie possono avere bisogno del nostro sostegno, dei nostri amici, anche magari semplicemente andandoli a trovare, mandandogli un messaggino, augurandogli appunto ogni bene appunto durante la settimana. Quindi prendiamoci la responsabilità anche delle coppie di sposi che noi appunto in qualche maniera consacriamo insieme appunto al Signore, partecipando alla festa appunto di nozze e cerimonie. E auguriamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando, magari visto che andiamo in onda di sabato e di domenica, proprio appunto tanti auguri se magari state in questo momento indirizzandovi verso appunto il luogo dove di solito appunto si consuma il pranzo di nozze. Io ci sono stato qualche settimana, tu ci sei stata appunto qualche giorno fa. Insomma, questi pranzi di nozze sono veramente strabilianti, non tanto per il numero di portate, anche per quello, ma anche per la cura che ci mettono appunto questi ristoratori. È un investimento per gli sposi, ma secondo me è anche bellissimo trovarsi insieme anche tra generazioni, perché una volta c'era la moda qualche tempo fa di invitare magari più gli amici che i parenti, adesso si ritorna, almeno dai matrimoni a cui ho partecipato, ad avere numeri importanti misti tra adulti, anziani e giovani. È un incontro tra generazioni e deve essere un pranzo veramente familiare, dove tutti possono appunto trovare posto e dove possiamo anche scambiarci magari qualche parola. Credo che questo sia un bel messaggio da parte degli sposi, invitare anche tutti, diciamo, tutte le generazioni di età che possono in qualche maniera voler ricordare e festeggiare loro appunto in questo momento specialissimo, unico, e che si ricorderanno per sempre. E così come i nostri oratori, che sono appunto ambienti che accolgono giovani, adulti e anziani, la sfida appunto di incontrarsi tra generazioni. L'altro ieri, proprio leggendo un giornale, Anna, si sottolineava il fatto che forse non è tanto pubblicizzato, ma quest'anno l'Europa, la Comunità Europea, l'ha dedicato ad un tema molto particolare: la solidarietà tra generazioni, cioè il fatto che incontrarsi tra generazioni deve essere appunto innanzitutto frequente e deve essere occasione per la crescita del paese, del territorio e quindi anche della nostra comunità europea. Anno europeo questo, il 2012, della solidarietà tra generazioni. Una cosa secondo me importante anche da sottolineare. Anna, abbiamo degli ospiti in questa puntata? Eh sì, questa puntata abbiamo gli amici della CR di Preganziollo. E avremo anche un ospite legato, sempre dopo lo annunceremo, lo presenteremo, sempre legato alla realtà di Preganziollo. Quindi puntata, diciamo, che abbiamo iniziato ricordando tutti i matrimoni che si stanno per celebrare o si sono celebrati appunto nelle scorse settimane, a cui abbiamo partecipato, a cui avete partecipato, quindi un grande momento di festa, e il matrimonio è sempre magnifico. E quindi la prima canzone che abbiamo scelto, Anna, di chi è? Degli U2. La più grande band del pianeta, io sono un appassionato, e ci cantano una delle canzoni dell'ultimo album, No Line on the Horizon, e che si chiama appunto Magnificent, quindi U2. Magnificent ha fatto iniziare solennemente con grandiosità la musica degli U2 questa ennesima puntata appunto di Fuori di Noi. Fuori di Noi appunto dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile. E proprio in questa puntata, l'hai già annunciato tu, verso diciamo la seconda parte avremo anche gli amici della CR di Preganziol, perché arricchiscono di settimana in settimana i gruppi ACR appunto della diocesi, arricchiscono il nostro contenitore raccontando cosa di bello fanno alla CR e quali esperienze particolarmente significative hanno vissuto recentemente con i propri educatori ACR. ACR e noi, un sodalizio che abbiamo voluto, che continuiamo diciamo a rinsaldare e continuiamo anche diciamo ad annunciare, proprio perché i destinatari dell'oratorio noi e presenti in una comunità, così come i destinatari appunto principali, privilegiati di una comunità parrocchiale, sono i giovani. Metterli insieme in maniera tale che vivano un'esperienza di comunità con la C maiuscola, una comunità cristiana. Ma adesso andiamo al primo ospite, vediamo se è in linea. Don Graziano, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, ciao Don Graziano, innanzitutto per aver accettato il nostro invito e averci accordato la tua disponibilità per questa intervista telefonica. Ciao. Don Graziano, presentati un attimino, da dove ci chiami e chi sei? Io sono appunto Don Graziano, sono cappellano della parrocchia di Preganziol e sono qui da 5 anni in parrocchia, sono collaboratore del parroco Don Fervido e seguo in particolare la pastorale giovanile della parrocchia. Benissimo, Don Graziano, qualche settimana fa nel settimanale diocesano Vita del Popolo, che proprio domenica scorsa ha festeggiato 120 anni di vita, ci sono in corso appunto altre celebrazioni, altre memorie, altre feste, e c'era appunto un articolone, mezza pagina di articolo, perché appunto è stato inaugurato qualche settimana fa, in fine di aprile, il nuovo oratorio. Raccontaci un po' allora della storia del vecchio oratorio, che era presente già a Preganziol ma che era momentaneamente, diciamo, chiuso, e il nuovo oratorio che avete inaugurato. Sì, abbiamo costruito, come avete ben letto, il nuovo oratorio per un'esigenza più che altro pastorale, parrocchiale. E prima infatti c'è la Casa del Giovane, che è tuttora presente, e c'era un ex cinema. Quest'ultimo era stato costruito agli inizi degli anni 50, proprio in particolare per i giovani, però tenendo fede anche ad un voto fatto alla Madonna, chiedendo la cessazione della guerra e il ritorno a casa dei soldati di Preganziol. Sì. Ecco, il nuovo oratorio proprio nasce sul terreno di questo ex cinema, mantenendo però la facciata centrale, proprio come segno di continuità anche dell'opera pastorale, quindi diciamo una continuità tra il vecchio e il nuovo oratorio, e anche modo di fare oratorio, perché a distanza di 50 anni... Certo, i tempi sono cambiati, la società è un pochino, diciamo, Don Graziano, un po' cambiata. Un po' cambiata. Ecco, certo. Insieme con me c'è Anna Zampieri della CR diocesana, che vuole appunto continuare con te l'intervista. Sì. Allora, Don Graziano, vorrei sapere quali sono le finalità di questa nuova struttura nella vostra comunità parrocchiale. Ma senz'altro finalità pastorali, educative, tutto quanto riguarda poi appunto il catechismo, le associazioni, però anche finalità culturali, territoriali, perché l'oratorio abbiamo aperto proprio, tendiamo di aprirlo anche al territorio, e anche soprattutto nelle nuove collaborazioni pastorali che si avvieranno anche di volta in volta anche nella nostra zona. Oggi siamo un tempo, viviamo, lo sentiamo, lo risentiamo, lo scrivono, lo ridicono. Siamo in un periodo appunto di crisi, e questa crisi tante volte c'è, ma forse viene anche troppo ingigantita, forse scoraggia, invece dovrebbe anche un po' in qualche maniera essere occasioni per rinnovarsi, per lanciare nuove proposte, secondo il mio modesto parere. Comunque, certo. Don Graziano, quali sono oggi, e ovviamente fino a qualche mese fa, prima di inaugurare l'oratorio, o da quando è partita l'idea di ristrutturare questo ambiente, quali sono state le maggiori difficoltà che voi come parrocchia, tu, il parroco, Don Fervido, avete incontrato, diciamo, nella realizzazione finale? Beh, senz'altro le difficoltà sono state tante, senz'altro non mancano i debiti dal punto di vista economico, appunto concreto, in un'opera così importante e bella. Poi, più che difficoltà, parlerei anche di una sfida che abbiamo affrontato e abbiamo iniziato oggi, proprio in un tempo anche di crisi, non solo economica ma anche di valori morali cristiani, quindi una sfida da portare avanti, una sfida da affrontare di giorno in giorno, insomma. Certo, perché appunto avete sentito forse, Don Graziano, non è stata un'iniziativa, diciamo, personale di due sacerdoti, avete sentito che c'era bisogno forse anche a Preganziol di avere questo nuovo centro, un centro anche moderno, perché alla fine, parliamoci chiaro, i giovani e le famiglie ovviamente arrivano se ci sono anche delle strutture che sono un po' anche all'altezza e in sintonia con la società che cambia, nel senso che deve offrire, diciamo, spazi che siano accoglienti, spazi anche moderni che possono, diciamo, anche per esempio, non so, avere la possibilità di fare delle proiezioni, e quindi è tutta una struttura ovviamente pensata per i giorni di oggi. Certo. Avete sentito questa esigenza? Questo forse vi ha spinto ad andare avanti nonostante ovviamente le grandi difficoltà economiche che purtroppo sono tutti stanno appunto notando e affrontando. Certamente, infatti era stata questa la sfida più importante che abbiamo affrontato, più che anche a livello solamente per i giovani, ma più che altro coinvolgendo anche le famiglie della nostra comunità, e quindi un'attenzione anche a questa sfida concreta che siamo chiamati ad affrontare oggi nel sostenere anche la famiglia in questa società. Bene. E avete già in programma delle belle attività per il nuovo oratorio? Ma siamo appena partiti, quindi ci stiamo lavorando con una commissione di una, circa una quindicina di persone che si è presa a cuore proprio anche questa iniziativa dell'oratorio. Stiamo valutando un po' l'avvio di questa opera e di queste attività. Certo, in mezzo c'è l'estate e la prima grande attività sarà senz'altro quella del Grest che andiamo a iniziare. Allora Graziano, tu Don insegni anche, quindi hai praticamente anche modo di osservare la gioventù che oggi appunto vive nella piazza, vive nella comunità, vive in casa, vive nella scuola. L'oratorio è legato anche alla parola educazione. Innanzitutto, come vedi questi ragazzi? Come vedi, diciamo, anche questa, come posso dire, quali sono secondo te le maggiori difficoltà che poi e che incontrerai nell'avvicinare questa gioventù un po', diciamo, la chiamano generazione X. Tu come la descriveresti? Certo, sì, come hai detto bene, insegno da circa 9 anni religione alle canossiane. In questo tempo un po' mi rendo conto che più di difficoltà parlerei proprio di fatica nel recuperare anche con i giovani il senso di ascolto, di pazienza, no? Sì. Oggi infatti i giovani hanno delle grosse risorse, però il poco ascolto della realtà che li circonda e anche aggiungerei la poca pazienza nell'ascoltare le persone, gli adulti o i coetanei, perché anche tra di loro non è che sempre si ascoltino, li porta anche così ad agire istintivamente, sbagliando magari anche alcune volte, facendo scelte inadeguate che purtroppo poi li portano anche un po' fuori strada. Quindi colgo proprio una mancanza di ascolto oggi che va recuperata secondo me, perché il giovane avrebbe questa capacità, però si trova a fare i conti anche con una realtà che lo distrae spesso e volentieri. Certo, come hai detto, no, che all'inizio, l'hai ripetuto pochi minuti fa, avete già coinvolto, diciamo, un gruppetto di persone che in qualche maniera avranno il compito di animare, seguire e anche mantenere ovviamente una struttura che è nuova e che esige anche pulizia, ordine e compagnia. Come avete cercato, diciamo, di coinvolgere queste persone? Innanzitutto, che età hanno questi volontari? Beh, questi volontari hanno, fa conto, dai 30 anni ai 40-45, quindi una fascia non proprio giovanissimi, ma neanche proprio anziani, quindi una mezza età, e con l'intento di coinvolgere anche i più giovani. E quindi innanzitutto una sensibilizzazione nell'ambito parrocchiale e territoriale, quindi questo qua è un primo aspetto, in modo da far sentire loro proprio anche l'ambiente oratorio. Quindi intendiamo coinvolgere intanto in questo senso, che si prendono a cuore proprio anche, oltre che la struttura, anche le varie iniziative e le persone che poi ci vivranno dentro. Benissimo. Don Graziano, ultima domanda. Se dovessi descrivere l'oratorio con un oggetto, quale sceglieresti e perché? Ma guarda, io insieme al mio parroco lo definiamo con un'immagine del Vangelo, una perla preziosa, perché quando lo scopri abbiamo idea che trovi una porta per entrare e avvicinarti a Gesù. È la, diciamo, la porta tra la chiesa e la piazza, la chiesa e il paese, che ti permette di avvicinarti proprio concretamente poi anche a Gesù. Benissimo, Don Graziano, allora salutiamo te e anche la nuova realtà dell'oratorio Sant'Urbano di Preganzol. E passiamo anche il testimone, perché dopo appunto la tua intervista ci sarà il gruppo appunto ACR di Preganzol, quindi ascolterai i tuoi ragazzi cosa raccontano di bello e cosa fanno all'interno appunto dell'ACR della tua parrocchia. Grazie, certo, ancora Don Graziano, e buon lavoro. Grazie. Ciao, grazie. Don Graziano. Ciao, arrivederci, ciao. E adesso è un altro brano musicale scelto dalla nostra Anna Zampieri. Chi è? Ci vediamo a casa di Dolce Nera. Andiamo a casa. La chiamano realtà, questo caos legale di dubbie opportunità, questa specie di libertà. Ci amiamo tanto. Dolce Nera, ci vediamo a casa, seconda canzone appunto di Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile. Non abbiamo ancora salutato il nostro regista Eddie Daici, che ci ha raccomandato di essere appunto con i tempi, di stare attenti ai tempi, vero Anna? E lo ringraziamo anche sempre per la sua disponibilità e pazienza, che con noi ce ne vuole tanta. Benissimo, e allora è il momento della rubrica In oratorio, si vola alto. E allora, come avevamo detto fin dall'inizio, abbiamo ospite di questa puntata il gruppo OCR di Preganzola. A loro la parola. Ciao a tutti, siamo il gruppo dell'ACR delle medie di Preganziol e adesso facciamo l'identikit della nostra parrocchia. Nome del paese: Preganziol. Nome della parrocchia: Sant'Urbano. Comune: Preganziol. Numero di abitanti: 17.025. Numero delle famiglie: 6.980. Nome del parroco: Don Fervido Cauzzo. E del cappellano: Don Graziano Santolin. Età del parroco: 64 anni. Data di nascita del parroco: Luglio 1948. Tre gruppi della nostra parrocchia sono: Cori, Scout, Pastorale Famiglie. La CR si svolge la domenica mattina e si svolge dalle ore: dalle 9.15 a mezzogiorno e mezzo. E quanti ragazzi ci sono? Circa 50 ragazzi dalla seconda elementare alla terza media. Gli educatori della nostra CR sono: il gruppo delle medie è seguito da Giulia, Giorgia e Davide, quello delle elementari da Piero, Silvia e Federico, mentre la terza media da Gianluca, Enrica e Stefano. Nell'ultimo incontro abbiamo parlato di... All'ultimo incontro, prima del convegno diocesano, visto che era l'ultimo, abbiamo parlato dei nostri sogni, del nostro futuro e di quali secondo noi riusciremo a realizzare. ACR, mi piace perché? Perché ci permette di crescere, costruire nuove amicizie e rafforzare quelle che già nate, ci permette di parlare di temi che ci sono vicini e di essere sempre più vicini a Gesù anche tramite la Santa Messa. Le attività principali che facciamo durante l'anno sono... Durante l'anno ci sono stati dei cicli di attività. All'inizio abbiamo trattato il tema dell'accoglienza. Poi durante l'avvento ci ha accompagnato la frase "non è possibile a Dio" attraverso la visita di alcuni ospiti. Poi abbiamo guardato due film, uno sui pregiudizi e uno sul futuro e sulla famiglia, che sono stati ripresi nelle domeniche successive. Come modalità ci sono piaciuti soprattutto le cacce al tesoro, i film e le attività con ospiti. Poi abbiamo fatto dei brainstorming, delle attività di dibattito e di riflessione. Il numero degli aderenti della nostra parrocchia all'Azione Cattolica sono... A Preganzola siamo 72 iscritti. Durante quest'anno ACR abbiamo fatto molte scoperte. Durante l'avvento abbiamo scoperto che Gesù ha un progetto per ognuno di noi e che se lo ascoltiamo possiamo raggiungere anche i nostri obiettivi. Poi, alla festa della pace, abbiamo scoperto che è importante sapere la situazione mondiale e che ci sono ragazzi della nostra età che stanno peggio di noi, ma anche che la vera pace si costruisce a partire dall'auto reciproco. Nei vari ambienti dove viviamo, in famiglia, a scuola, nello sport, alla CR. A Tiberiade abbiamo scoperto che Gesù ci accompagna sempre, che è una voce che ci aiuta a capire cosa fare. Basta sapere ascoltarla. Attraverso le altre attività abbiamo scoperto che per salire la montagna che ci porta ai nostri obiettivi bisogna avere gli attrezzi giusti e la compagnia giusta, che sono Gesù e i nostri amici. Infine, nell'ultima parte dell'anno, abbiamo scoperto come le nostre scelte non ricadono solo su di noi, ma anche sugli altri. Quindi bisogna pensare e farsi consigliare da persone di cui ci fidiamo come genitori e gli amici. Un grande saluto da... David. Aurora. Margherita. Chiara. Beatrice. Luca. Chiara. Emma. Nicolas. Chiara. Da Preganzola, puntate in alto! E noi cercheremo di puntare in alto grazie agli amici di Preganziol, grazie a Don Graziano Santolin, cappellano della parrocchia di Preganziol, che ci ha un po' raccontato la sua esperienza di oratorio, il nuovo oratorio ristrutturato proprio nella parrocchia, che ha tante appunto belle finalità e ha tante speranze per il futuro, e auguriamo ogni bene. Anna, siamo arrivati alla conclusione, noi ci risentiamo sempre il sabato alle ore 14 e domenica alle ore 12.30 sempre e solo su Blu Radio Veneto. Un saluto alla regia. Anna, buona settimana, buona festa, grazie. E ci risentiamo sempre su Blu Radio Veneto con la prossima puntata di Fuori di Noi. Ciao a tutti. Ciao ciao.